Radio 24 Reportage. Auto elettrica. Il mercato aspetta ancora la scossa. Di Andrea Ferro. Il futuro, si dice, è scritto nel passato. In questa storia è il presente ad arrancare tra i tornanti di un processo in divenire lungo il quale il tempo di percorrenza resta quanto mai incerto. La storia delle auto elettriche è una trama semplice e complicata al tempo stesso. Semplice perché iniziò tanto tempo fa, quando la lungimiranza era un'arte e l'inventiva una scommessa. Era il 1832, lo scozzese Robert Anderson inventò la prima carrozza mossa da un motore elettrico. Di lì a poco in tanti lo imitarono, al punto che nella seconda metà dell'Ottocento le auto elettriche diventarono uno status symbol. Poi è andata come sappiamo, i motori a combustione si imposero, più veloci come prestazioni, più rapidi da rifornire, un'altra idea di mobilità prese il sopravvento rottamando le auto elettriche tra le note a margine dei libri di storia. Poi il mondo si è accorto dell'inquinamento prodotto dai veicoli e non solo da loro, ed ecco che dai garage del tempo, come idea e progetto, sono rispuntate le auto elettriche, chiave e di volta per varcare la soglia della sostenibilità. Una rivoluzione ritenuta inderogabile che però per molto tempo si è spiaggiata negli annunci ingurgitando le aspettative. Ora pare il momento della scossa è arrivato. Lo dicono i numeri di un mercato rivitalizzato, per quanto ancora mantenga quote molto limitate, gli stessi numeri che pongono l'Italia tra i paesi che più di altri viaggiano in ritardo sulla via della mobilità elettrica. Numeri che al tempo stesso indicano grandi opportunità per le nostre filiere industriali. Questo reportage prova a mettere insieme i fili di un cortocircuito particolare muovendo da uno studio realizzato da European House Ambrosetti e presentato al Forum Automotive di Milano, a curarlo Lorenzo Tavazzi. Come Italia siamo indietro dal punto di vista dello sviluppo, ma sul deployment, diciamo, sulle strade. Siamo invece molto ben messi, o potenzialmente molto ben messi, dal punto di vista industriale. L'Italia ha competenze diffuse, non necessariamente sulla filiera elettrica, anche sulla filiera elettrica, ma non dimentichiamoci una filiera elettronica, elettrica, molto più complessa, l'automotive, che è uno degli elementi di forza del nostro sistema paese a livello internazionale, in cui ci sono competenze diffuse che possono essere messe, riorientate in parte, per la mobilità elettrica. Quindi in realtà è un'opportunità molto concreta, si tratta di organizzarla questo processo. È mancata però finora una visione d'assieme, una scelta strategica precisa, questo si evince dal suo studio. Certamente è un processo in corso, non è definito, stanno dal nostro osservatorio muovendosi le cose in questo senso ed è un elemento assolutamente positivo, incoraggiante ed è un elemento di, come posso dire, riconoscimento e interiorizzazione di una opportunità potenziale che inizia a essere concreta. Giusto per capirci, oggi in Italia circolano non più di 10.000 auto elettriche o ibride plug-in, cioè che si ricaricano da una presa elettrica. Numeri piccoli piccoli, ma va detto che nel 2016 le immatricolazioni sono aumentate del 60% rispetto al 2015. Se in Norvegia, paese al top delle graduatorie europee, le auto elettriche rappresentano il 5,1% del parco circolante, in Italia sono lo 0,026% del totale e per totale intendiamo un parco auto affollatissimo e vecchiotto. Nel nostro paese infatti si registra il tasso di motorizzazione più alto d'Europa, 610 auto ogni 1000 abitanti rispetto alle 548 della Germania e alle 484 della Francia e quasi il 14% delle vetture ha più di 20 anni. Al di là della sicurezza significa che l'impatto ambientale è superiore ai parametri medi europei. In un quadro del genere l'auto elettrica avrebbe evidentemente ampi margini di diffusione, ma a rallentarla insistono ancora quelli che Francesco Venturini, direttore Global E-Solutions di Enel, definisce falsi miti. Uno dei miti da sfatare è appunto che l'auto elettrica ancora inquina perché l'energia viene da centrali che utilizzano idrocarburi sostanzialmente per produrre elettricità. È nuovamente una leggenda perché in grandi parte dei paesi che hanno investito in energie rinnovabili ormai il mix energetico è tale che la CO2 che viene prodotta indirettamente dalla filiera è molto minore da quella che viene invece prodotta indirettamente dalla filiera degli idrocarburi. L'altro mito da sfatare importante è quello del fatto che le macchine hanno un un range, quindi una capacità di fare chilometri molto bassa. In realtà sappiamo che alla fine i cittadini tutti i giorni, la maggior parte di noi fa pochi chilometri, fa casa ufficio, casa scuola, casa supermercato, e per fare quel tipo di distanza lì le macchine elettriche sono ancora sono già sufficienti. Un altro mito importante è quello che si dice: servirà molta più energia e quindi dove andiamo a prendere questa energia? In realtà serve meno energia, perché le macchine elettriche sono molto, molto più efficienti, e d'altra parte l'efficienza energetica che ci sta portando a consumare molto meglio l'energia più che compensa l'energia che ci sarà necessaria domani per andare a supportare un grande numero di macchine elettriche. Al di là dei falsi miti e di ogni altra argomentazione, quando si parla di auto elettrica, come abbiamo sentito, la prima cosa che viene in mente è la ricarica. Dunque, per rendere appetibile una vettura di questo tipo, deve esistere una rete infrastrutturale capillare che garantisca il rifornimento, possibilmente in tempi sempre più rapidi. Oggi in Italia le colonnine sono circa 4.500, quelle più tecnologiche e veloci completano la ricarica in una ventina di minuti. A luglio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un accordo di programma con le regioni e le province autonome. Per implementare la rete sono stati stanziati poco meno di 29 milioni di euro e nel a piani ambiziosi annuncia l'installazione di altre migliaia di colonnine. Già dal 1 ottobre sulla 1 ha posizionato 30 punti di ricarica veloci, uno ogni 60 chilometri. Ecco, sempre da Francesco Venturini di Enel, sentiamo quanto costa andare da Milano a Roma con un'auto elettrica. Stiamo parlando di un qualche cosa che gira tra i 15-20 euro come offerta lancio da un punto di vista commerciale, a una situazione che sarà a regime intorno ai 30-35 euro. In questi anni però, se l'auto elettrica ha stentato a partire, non è stato solo un problema di colonnine, come ci dice Michele Crisci, presidente di UNRAE, l'Unione dei Costruttori Esteri. Bisogna essere molto onesti, non tutte le case auto sono pronte con dei prodotti che siano peraltro anche come dire affordable, come dicono gli inglesi, quindi che siano capaci di essere acquisite con una spesa normale rispetto alle trazioni tradizionali. Ma allo stato attuale quanto costa in più un'auto elettrica rispetto ad un'auto a benzina o diesel? Lo abbiamo chiesto a Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA, l'associazione nazionale della filiera automobilistica. Ma c'è un differenziale che possiamo identificare per un'utilitaria in 5-6 mila euro all'incirca. Poi man mano che si sale chiaramente di segmento, il differenziale gap diventa ancora più elevato. Il cuore pulsante di un'auto elettrica sono le batterie. Quando queste hanno esaurito, diciamo così, la loro funzione, che fine fanno? Attorno a questo interrogativo ruotano dubbi e qualche timore. Per capirne un po' di più ci siamo rivolti a Giancarlo Morandi, presidente di COBAT, che è il Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo. Le batterie che saranno installate sulle auto elettriche, una volta che non saranno più in grado di spingere l'autovettura come desidera ogni autista, però saranno ancora in grado di essere utilizzate per immagazzinare energia elettrica, cioè per quegli usi che vengono chiamati stazionari, in modo tale che questo fatto potrebbe abbassare notevolmente il costo della batteria per l'utente e rendere tutta la macchina elettrica più appetibile. Poi alla fine, quando non saranno neanche più in grado di immagazzinare l'energia elettrica stazionaria, no? Allora dovranno essere riciclate, e qui abbiamo in piedi uno studio col Consiglio Nazionale delle Ricerche, perché oggi al mondo il litio non si sa ancora come si può recuperare, e direi che però siamo a buon punto e credo che tra qualche mese potremo annunciare che abbiamo finito gli studi e che l'Italia sarà in grado di recuperare anche il litio. Mobilità elettrica non significa solo auto, ma anche bus e camion. In Svezia, a titolo sperimentale, i mezzi pesanti circolano come fossero filobus. Sentiamo un po' meglio cosa succede da Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE. Quando escono dall'attacco del pantografo e possono superare o possono arrivare fuori in un'autostrada con altri tipi di modalità, quindi un ibrido elettrico per quanto riguarda il lungo raggio, nei sorpassi e nel trasporto verso la città possono andare a metano o a diesel o a altri tipi di combustibili, però sono ibridi. C'è una sperimentazione di 3 km al momento, ma ci sono degli accordi in Germania per poter costruire autostrade, quindi non è solo un'idea così balzana, ma è sicuramente un futuro che è prossimo, che potrebbe essere un qualcosa di molto interessante, sostenibile e molto positivo, che riduce magari anche il congestionamento delle strade. Insomma, mobilità elettrica è davvero la volta buona? Affidiamo l'ultima parola a Pierluigi Bonora, promotore del Forum Automotive. Siamo arrivati al momento clou. Adesso è il sistema paese che deve rispondere, ma soprattutto il governo deve dare un segnale dicendo: vabbè, comprate un'auto elettrica, vi do una mano, magari con incentivi economici che non piacciono tanto da quello che ho sentito, ma con agevolazioni, facilitando l'ingresso nelle strade, i parcheggi e l'ingresso nei centri storici e altre agevolazioni da studiare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.